Allora, 5.000 domande dal 1 febbraio ad oggi. Sono tante, sono poche, è possibile, come dire, giudicare, fare un commento su questa cifra? Avvocato, ve l'aspettavate? Vi aspettavate qualcosa di più? Una corsa più massiccia allo sportello? Ma sicuramente anche in base a dati che il vostro stesso giornale aveva pubblicato un mese fa, un mese e mezzo fa circa, innegabilmente pensavamo a cifre diverse, ma è anche vero che in realtà le domande si potevano presentare dal 1 febbraio, che quindi chiaramente siamo ancora comunque in una fase iniziale. Avevamo anche detto, avevamo messo in guardia i clienti dal fatto che comunque questa sospensione non sarebbe stata a costo zero per loro, e quindi evidentemente c'è una certa cautela. Va detto anche che riteniamo che presumibilmente ci sia una fetta di persone, famiglie interessate potenzialmente a questa sospensione che però probabilmente non rientra nei requisiti e quindi è quella, come più in difficoltà ad accedere a questa sospensione, e mi riferisco per esempio ai possessori di partita IVA e quindi ai lavoratori autonomi che nell'arco del 2009 si sono trovati nella necessità di chiudere la partita IVA perché appunto non c'era più possibilità di lavorare per loro. Così come ritengo ci sia un limite che è dato dal fatto che le condizioni, diciamo, necessarie per poter accedere alla moratoria fanno riferimento ad eventi che sono avvenuti nel 2009 e ovviamente poi anche nel 2010, e mentre qualcuno ci fa presente, ma questo anche noi associazioni lo avevamo fatto presente, ci sono situazioni di, per esempio, cassa integrazione o mobilità che datano già dal 2008. E quindi chiaramente queste persone denunciano la impossibilità di poter aderire alla moratoria attuale.